America 24 di Mario Platero. Today, after all the votes have been tallied, health insurance reform becomes law in the United States of America. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, avete sentito Barack Obama, la storia è scritta. Il presidente ha firmato ieri alla Casa Bianca il progetto di legge per la riforma sanitaria. Devo dire, è stato un momento di grande emozione vedere la leadership del Congresso, Nancy Pelosi, Harry Reid del Senato, Nancy Pelosi, ricordiamolo, presidente della Camera, riuniti insieme. Beh, è uno di quei momenti che in qualche modo rendono davvero il senso della storia. Subito dopo il presidente ha distribuito le 20 penne con cui ha firmato la legge a ognuno dei leader, a ognuno dei protagonisti, e la cosa che mi ha colpito di più è vedere questo straordinario sorriso del presidente, quel sorriso che gli ha conquistato milioni di cuori durante la campagna elettorale e che, devo dire, da molti mesi ormai non lo si vedeva più. Poco dopo ha spiegato alcuni dei dettagli, sentiamoli. This year we'll start off offering tax credits to about 4 million small businessmen and women to help them cover the cost of insurance for their employees. That happens this year. Ecco, Obama dice che ci vorranno 4 anni per avere gran parte dei risultati di questa proposta di legge, ma subito, già quest'anno, ci saranno molte misure. Innanzitutto ci sarà un credito fiscale per milioni di piccole aziende americane, e ci saranno da parte delle assicurazioni le concessioni, una delle concessioni più importanti, quella di onorare le malattie preesistenti. Finora una compagnia di assicurazione poteva declinare l'idea di concedere una polizza a qualcuno perché appunto aveva una malattia preesistente. Non potranno più cancellare le polizze e le assicurazioni quando la gente si ammala. Di nuovo dice Obama, questo viene quest'anno, sempre quest'anno. I giovani potranno restare sotto la polizza dei genitori fino ai 26 anni. Insomma, sotto un certo punto di vista, alla Casa Bianca ieri abbiamo visto una vera e propria prova generale dei comizi che, a partire da domani in Iowa, il presidente terrà un po' in tutto il paese per spiegare questa sua proposta di legge, ma soprattutto per frenare l'erosione dei consensi in attesa delle elezioni a novembre. Ma al di là di questo piccolo comizio, dobbiamo registrare anche un momento di grande emozione. I'm signing this reform bill into law on behalf of my mother, who argued with insurance companies even as she battled cancer in her final days. Firmo questo progetto, dice il presidente Obama, a nome di mia madre. È stato forse il momento di maggiore emozione, e ricorda che ha litigato con le compagnie di assicurazione persino quando combatteva il cancro nei suoi ultimi giorni di vita. E poi una lunga serie di altre persone in nome di cui Obama firma questo progetto di legge. Ad esempio, per Marcella Owens, un bambino di 11 anni che ha perso sua madre perché non aveva l'assicurazione per potersi curare. E questo bambino è andato in giro per gli Stati Uniti a fare comizi per sostenere il progetto di Barack Obama. È stato, devo dire, emozionante vedere questo ragazzino di fianco al presidente nel momento in cui poi Obama firmava. Infine, il presidente ha voluto dedicare anche la firma di questo documento storico a tutti i presidenti che prima di lui hanno cercato inutilmente di fare qualcosa di simile, a partire da Teddy Roosevelt all'inizio del secolo scorso fino a Bill e Hillary Clinton. Si è dunque compiuto un percorso di un secolo, e davanti a questa solennità straordinaria della Casa Bianca, che rappresenta poi l'avvio, l'inizio della campagna elettorale del presidente, ecco, al di là di questo aspetto, una columnist come Maureen Dowd questa mattina sul New York Times ha dovuto riconoscere che finalmente questo presidente ha tirato fuori le grinta, l'energia, il coraggio che gli mancava e che lei stessa aveva sottolineato nei suoi vari interventi quanto mancasse. Dunque, soddisfazione generale, grande atmosfera, ma anche una gaffe. Il vicepresidente Biden, che sappiamo è tipico nel fare gaffe continue, è riuscito a farla anche ieri. Ha detto una parolaccia nel momento in cui si stava per firmare. Sentiamo Biden, non so se riuscirete a sentirlo. A un certo punto il vicepresidente dice nell'orecchio del presidente: "This is a big fucking deal." Sentiamolo. Ladies and gentlemen, the President of the United States of America, Barack Obama. Ecco, non so se l'avete sentito, ma subito dopo questa introduzione del presidente, Biden a quel punto gli si avvicina e nell'orecchio gli dice "This is a big fucking deal". Ecco, questa parola che io mi permetto di dire perché in italiano non si capisce bene fino in fondo, in America non si dice mai, è detta la F-word, che è proprio una delle parolacce più brutte che si può usare in America. E come dire, questo è stato un fottutissimo accordo. Ma la cosa che mi ha colpito di più è di vedere Barack Obama totalmente sbalordito. L'espressione del presidente che cambia perché si rende conto che Biden sta dicendo, insomma, una cosa che comunque è fuori luogo. Poi purtroppo si è saputo che alcuni dei microfoni avevano anche registrato questa battuta. Bene, siamo a New York, siamo a Grand Central, di nuovo Radio 24 esplora quello che succede nella Grande Mela e siamo in particolare a una importante manifestazione, una nuova exhibition di occhiali, la storia degli occhiali. E abbiamo con noi Vittorio Tabacchi, presidente dell'ANFAO, che è l'associazione dei produttori di occhiali in Italia, ed è presidente anche della Safilo. Può dirci intanto perché questa mostra? Ma questa mostra l'abbiamo fatta insieme a Lice per far conoscere al grande pubblico americano la storia della nascita dell'occhiale, per confermare che la nascita è venuta in Italia e precisamente a Venezia, durante la Repubblica di Venezia. In che anno? 1281. E erano non un occhiale come noi lo riconosciamo oggi, ma erano due lenti di ingrandimento attaccate con un chiodo sul gambo e venivano appoggiati al naso. Prima che l'uomo scoprisse che l'occhiale poteva essere attaccato agli orecchi e non semplicemente appeso o a cavalcioni del naso, ci sono voluti 450 anni. Ma i primi occhiali da sole sono circa il 600, anche qui sono inventati dai veneziani che usavano o avevano la necessità di protezione e proteggersi dai riflessi dell'acqua. Invece qualche cosa di moderno e di occhiale più contemporaneo? In mezzo alle caratteristiche di occhiali che noi abbiamo portato in questa mostra, diciamo, che esponiamo in queste vetrine, ci sono e degli occhiali particolari di moda al giorno d'oggi, ma ci sono, a conferma che l'occhiale è un indice del carattere della persona che le porta, sono gli occhiali di Elton John. Noi abbiamo portato dal museo nostro questo occhiale indicativo del carattere della persona. Questi occhiali sono a forma di bocca, con le labbra dipinte di rosso e molto accentuata la sagoma delle labbra e della bocca, che indica un pochino il carattere della persona che li ha indossati. Quanto vale il mercato americano degli occhiali? Noi esportiamo circa l'85% della nostra produzione e di questo 85% il mercato americano rappresenta circa il 40%. In termini monetari sono circa un miliardo e mezzo circa di euro. E la produzione italiana vis-à-vis la produzione globale? Mondiale? La produzione mondiale è circa 2 miliardi e 400 mila euro e rappresenta, è difficile dire, ma rappresentiamo circa, ovviamente nel nostro ramo, cioè nella parte alta del mercato, high end di mercato, rappresentiamo circa il 20% del mercato mondiale totale. Bene, un'altra storiella che pubblica questa mattina il New York Times, un'analisi del traffico interesserà quelli che ci ascoltano in macchina. La giornata peggiore per girare in macchina a New York è il mercoledì. Ancora non è chiaro perché, ci saranno alcune spiegazioni ed analisi, lo approfondiremo, come ci sono mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera, come abbiamo visto dalla cerimonia di ieri alla Casa Bianca. Continuerete a trovare questi approfondimenti su America24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. A American Idiot dei Green Day. Perché? Beh, perché ieri Tom Hanks, il grande attore, ha annunciato che vuole trasformare questo album in un film. Era già diventato un musical di grande successo e ruota attorno a un tema, al fatto che l'americano, l'idiota americano, passa il suo tempo sdraiato su un divano assorbendo in modo passivo tutto ciò che i mass media gli offrono. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal mindfuck America. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!